In base alla tua esperienza, qual è il coinvolgimento dei nuoresi con la cultura del territorio? Allora, secondo me i nuoresi hanno a cuore la loro cultura e il loro territorio. Fortunatamente Nuoro è anche una città ricca da questo punto di vista, sia dal punto di vista di ovviamente personalità, non parlo solo di Grazia Deledda, parlo anche di Salvatore Satta, di Sebastiano Satta, di Francesco Ciusa. Abbiamo anche diverse istituzioni, diversi musei, diversi spazi culturali che portano avanti comunque dei progetti e hanno delle collezioni che hanno una forte identità dal punto di vista culturale della nostra tradizione, sia nuorese che più in generale sarda. E credo che comunque i nuoresi lo sentano fortemente. Forse io spero che ci sia in futuro anche più impegno da parte delle istituzioni nel valorizzare appunto le altre figure oltre a Grazia Deledda, per cui giustamente sono stati fatti anche tanti eventi, sono state fatte tante iniziative, però sarebbe bello che anche le altre figure importanti storiche che abbiamo a Nuoro siano valorizzate, perché penso che comunque i nuoresi apprezzerebbero molto e lo vivrebbero molto anche in questo senso, insomma, il loro territorio e la loro città. Cultura, pro e contro, cosa modificheresti? Allora, modificherei forse il modo in cui le istituzioni culturali, ma anche diciamo, le iniziative culturali, anche spontanee, coinvolgono i giovani, nel senso che forse è più necessario che ci siano, che si coinvolgano attivamente, che si cerchi proprio l'apporto dei giovani dal punto di vista delle iniziative culturali, che si dia voce al loro punto di vista e che siano coinvolti attivamente anche diciamo nel pubblicizzare, nel far conoscere con i mezzi che loro conoscono, appunto determinati aspetti, possono essere iniziative, possono essere mostre, può essere qualunque aspetto veramente culturale della città, però dovrebbe essere proprio un po' più rivolto ai giovani, dovrebbe essere più portato avanti dai giovani e quindi si dovrebbe trovare il modo di coinvolgere di più. Ci dovrebbe essere, perché a volte sembra che, come dire, certe iniziative siano rivolte a un circolo chiuso, un circolo delle stesse persone che magari le portano avanti e quindi magari ci sono delle iniziative bellissime, ma non vengono fruite da tutta la popolazione che in realtà potrebbe avere interesse. Sì. Un evento culturale che ti ha colpito maggiormente. Allora, un evento culturale che mi ricordo molto bene, che mi ha colpito molto, è stato nel 2017 la riapertura del Tribù, che è uno spazio appunto vicino alla cattedrale che era rimasto chiuso per tanti anni. Nel 2017 è stato riaperto anche col coinvolgimento del Museo Mann e era uno spazio che era stato rinnovato e in cui erano ospitate le opere dei maggiori artisti sardi. E io ho partecipato alla, diciamo, alla cerimonia di apertura, diciamo, ed era bellissimo perché appunto non soltanto c'erano ovviamente quadri di Ballero, c'erano veramente tantissimi artisti che sono quelli che veramente si studiano sui libri di storia, ma una cosa molto importante è che erano presenti anche le sculture di Francesco Ciusa ed erano presentate in maniera veramente d'impatto, era stato fatto un ottimo lavoro e mi ricordo benissimo anche proprio l'emozione di tutte le persone che erano, insomma, che erano intervenute a questa cerimonia e proprio anche il silenzio che c'era nell'osservare queste sculture. Parlavano loro, non c'era bisogno di spiegazioni, non c'era bisogno di nessuno insomma, ne spiegasse la storia, il significato, perché lo capivamo. Molti di noi ovviamente erano nuoresi, quindi era, come dire, un pezzo della nostra storia che noi vedevamo ed è stato veramente un bellissimo momento. Questo è me lo ricordo benissimo, questo sì. Negli ultimi 15 anni, come hai vissuto i cambiamenti in Murese? Allora, ho visto i cambiamenti in maniera più, più evidente dopo che sono tornata dallo studio, dall'università. Io ho fatto l'università per 3 anni a Cagliari, poi dopo sono uscita 2 anni per studiare a Ravenna. Quindi ovviamente quando si torna si vedono... insomma, delle cose che prima o si davano per scontate o sono cambiate in maniera abbastanza evidente. Positivamente, devo dire, negli ultimi anni ho notato che c'è stata più attenzione per quanto riguarda il decoro urbano. Mi sembra che sia... che ci sia proprio più attenzione a tenere meglio la città sotto tutti i punti di vista, anche qualcosa di banale come non so, mettere qualche fiore in più o tenere le strade più ordinate, e mi sembra che sia in un certo senso proprio molto più vivibile, faccia più piacere uscire, più piacere incontrarsi. Il Monte Ortobene è molto più vissuto e adesso, insomma, sia dalle famiglie sia anche da singoli, dalle coppie, ho notato che veramente c'è molta più vita, è molto più frequentato, ci sono anche più punti di ritrovo effettivamente, quindi questa è un'ottima cosa. Ovviamente purtroppo uscendo da Nuoro, anche dalla Sardegna, però in particolare da Nuoro, e facendo altre esperienze si notano anche gli aspetti negativi. Una delle cose che purtroppo è rimasta invariata e che ho notato ancora di più da quando ho iniziato a lavorare e a viaggiare costantemente per lavoro fuori da Nuoro, sono i collegamenti. I collegamenti, perché veramente non c'è altro modo tranne la macchina, cioè devi per forza avere una patente, se devi uscire da Nuoro per lavoro, per un'emergenza, qualunque cosa, purtroppo è molto poco collegata la nostra città rispetto anche a Cagliari o a Sassari, quindi questo è una cosa che ovviamente soprattutto anche andando in continente, facendo esperienza dei trasporti che ci sono in continente, si nota molto di più. Questo sì. C'è qualche luogo di Nuoro che ti suscita ricordi o emozioni importanti? Allora, uno che mi ricordo particolarmente bene e con affetto è la Biblioteca Rionale di Montegurtei. Appunto, era una succursale della Biblioteca Sebastiano Satta, e per me praticamente è stata la biblioteca in cui sono cresciuta. Forse un po' mi ha anche influenzato, perché adesso faccio la bibliotecaria, l'ho scelto proprio come percorso di studi magistrale, ed è stata molto importante perché quasi ho vissuto più la biblioteca in questa piccola succursale che nella sede principale, diciamo, anche proprio per una questione di... era la biblioteca del quartiere, io vivo a Montegurtei, e quindi era anche un po' non soltanto il posto dove banalmente si andava per fare i compiti o le ricerche quando eravamo piccoli, ma era anche proprio un posto di ritrovo per praticamente tutti i bambini, i ragazzi, ma anche le persone anziane. Era piccola, ma ricordo aveva tutto, e stiamo parlando comunque dei primi anni 2000, ecco, quindi per dire, aveva 2 computer e comunque sembrava già una gran cosa, perché molti non avevano ancora il computer a casa. Aveva una piccolissima emeroteca dove però comunque c'erano i divanetti, c'erano gli anziani che venivano proprio a leggersi il giornale. Era veramente un posto frequentato e vissuto in piccolo dalla gente del quartiere, quindi appunto era proprio anche un posto di ritrovo per noi bambini, eravamo bambini, io ero alle elementari, però appunto era veramente un punto importante per noi, insomma, che vivevamo lì. Quindi sì, questo è veramente un posto che adesso al momento è chiusa, però comunque me lo ricordo davvero con affetto, ecco. E anche tutti gli altri ragazzi, adesso che siamo diventati grandi, insomma, più o meno della mia età, cioè più o meno tutti davvero ci sono passati, quindi è stata anche una bella cosa avere questo insomma, questo piccolo pezzo di cultura della biblioteca, però trasposto in piccolo, diciamo, nella nostra quotidianità, perché era lì e sapevamo che c'era e ci ha aiutato molto sicuramente, sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista veramente della ricerca, ma anche proprio del piacere della lettura, perché comunque me la ricordo come ci potevi trovare un po' di tutto, ecco, era una biblioteca anche fornita, era una biblioteca dove comunque insomma scoprivi anche la cosa importante, il punto focale delle biblioteche è proprio questo, anche che ci trovi qualcosa che magari non pensavi di avere bisogno o di provare interesse per, non so, per un determinato libro, una determinata materia, e invece ti aiutano a scoprire questo, quindi le biblioteche ti aiutano anche a scoprire qualcosa di nuovo di te stesso. E anche quando sei bambini, questa cosa, avere la possibilità di scelta e di scoprire questo mondo, ripeto, anche se in piccolo, secondo me è importante. Noi abbiamo avuto questo a Montecurtei. Oggi invece come vivi Nuoro insieme ai tuoi coetanei? Allora, oggi diciamo che Nuoro è soprattutto un punto di ritrovo, mi spiego meglio. Molti di noi, molti dei miei amici, quelli della mia età, sono fuori Nuoro, vivono fuori Nuoro, lavorano fuori Nuoro, si sono trasferiti a volte veramente molto, molto lontano, anche fuori dall'Italia. Però comunque sappiamo che poche volte l'anno che sia, magari soltanto proprio per le feste comandate a Natale o in estate, ci sarà sempre un periodo in cui saremo tutti a Nuoro, perché comunque a Nuoro si torna, perché c'è la famiglia, perché anche semplicemente si ha nostalgia, però sappiamo che a Nuoro possiamo rivederci, e ovviamente vedersi di persona è, come dire, è fondamentale, nonostante tutte le chiamate e i messaggi che si possono fare durante l'anno. E quindi, insomma, anche se magari si è stati o costretti o semplicemente perché si è voluto fare un'esperienza differente, non si è trovato lavoro qua, si è stati costretti a uscire da Nuoro, non si è abbandonata, cioè a Nuoro si torna sempre. E quindi questa è una cosa che è anche bella, è anche preziosa, perché comunque ci sono i posti in cui si torna, ci sono i locali preferiti che insomma, meno male, comunque molti rimangono sempre lì, e comunque in generale anche veramente fare una passeggiata al corso o fare il sentiero 101, veramente vivere Nuoro, fare quelle cose che abbiamo fatto tantissime volte quando eravamo più piccoli, quando eravamo ragazzi o ragazzini, si rifanno da grandi, cioè comunque Nuoro continui a viverla da questo punto di vista. Quindi sì, comunque a Nuoro ci si ritrova anche quando si è andati lontano, ci si torna.